Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il fratellino aveva raccontato che lei aveva, perché c'è scritto l'ordinanza, quindi lo dico, il fratellino aveva raccontato che lei era infastidita dalla presenza di uno in chiesa che la guardava. Questo ha raccontato il fratellino. È al vaglio in questo momento. Questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, uno dei passaggi di oggi della PM Letizia Ruggeri sul caso di Chiara Gambirasio, perché sapete che ieri poi è stata emessa la custodia cautelare in carcere, quindi ha superato, diciamo, anche il fermo, e oggi diceva, fra le varie cose, Letizia Ruggeri che il fratellino 2 anni fa, in una deposizione che aveva fatto in presenza di uno psicologo eccetera, aveva raccontato di quest'uomo con la barbetta che la spaventava. Dopo torneremo ancora sul caso Gambirasio con altri due esperti, perché poi la stessa PM ha detto, probabilmente, non escludo insomma, di chiedere il rito immediato, e quindi vediamo. Poi se ancora si continua a parlare del DNA, la madre di Bossetti ancora nega che sia, tra virgolette, figlio legittimo, quindi non figlio del proprio marito, ma di Guerinoni, come invece dicono gli investigatori. Ci torneremo però, e andremo anche a parlare di politica, perché ormai è ufficiale, già era stato detto ieri, però adesso è definitivo l'incontro, la data tra Movimento 5 Stelle e PD ci sarà il 25 giugno, mercoledì 25 giugno. Che cosa vi aspettate da questo incontro sulle riforme, in particolare sulla legge elettorale, e come lo vedete? Siete d'accordo? Cosa ne può emergere? Vi lancerei questo come argomento per gli sms al 349-238-6666, oppure per i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Intanto vi racconto in breve la giornata. Riforme, mercoledì l'incontro tra PD e Movimento 5 Stelle, la ministra Boschi avverte modifiche solo se condivise da Forza Italia. Al via la semplificazione fiscale, dal 2015 ci sarà la dichiarazione dei redditi precompilata per 30 milioni di italiani. Il caso Chiara Gambirasio, in conferenza stampa la PM fa sapere non escludo il rito immediato e sottolinea nessun dubbio che Giuseppe Guerinoni sia il padre dell'omicida. Gli insulti di Berlusconi ai giudici, il leader di Forza Italia rischia l'incriminazione. Ucraina, il portavoce delle truppe ucraine annuncia tregua unilaterale a partire dalle 22:21 ora italiana, quindi da adesso, da 4 minuti dovrebbe essere iniziata questa tregua. E per i mondiali di calcio, cosa dire, un'Italia deludente che affonda contro il Costa Rica, che vince per 1-0. Partiamo quindi dalla politica centrata, come sapete, negli ultimi giorni, soprattutto sul dibattito relativo alle riforme. Il governo stringe e ai 5 Stelle dice va bene il dialogo, ma non si ricomincia da zero. Sembra ormai a portata l'accordo sulle riforme istituzionali. Al centro del confronto in queste ore sono gli ultimi dettagli sulla composizione del nuovo Senato. Tocchiamo ferro, siamo ad un passo, conferma il ministro Boschi, che apre anche al confronto con il Movimento 5 Stelle sulla legge elettorale. Ai grillini, la titolare dei rapporti con il Parlamento fa però sapere che eventuali modifiche all'Italicum dovranno essere condivise con la maggioranza e con Forza Italia. Non si cambia partner, diciamo così, all'ultimo momento, quando c'è un percorso serio di riforme che, come ripeto, ha impegnato non solo il governo ma i gruppi parlamentari in questi mesi. Dal canto suo il Movimento 5 Stelle chiede che quello di mercoledì sia un incontro a livello di delegazioni parlamentari con il Partito Democratico, dunque non con il governo, ma i grillini con Di Stefano lanciano anche un messaggio chiaro al premier Renzi. Ora sta a lui decidere se continuare a fare accordi opachi con il condannato Berlusconi oppure atti in trasparenza e per il paese con il Movimento 5 Stelle, quella è la nostra proposta. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E vedo già vari vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte. A questo proposito, Angela dice: il PD non poteva dire di no al confronto con Renzi, con Grillo, ma resta inchiodato al patto con Berlusconi. Nel frattempo sono stati approvati i decreti sulla semplificazione fiscale. Oggi o lunedì ci sarà la firma per la, più probabilmente a questo punto lunedì, la firma per la riforma della pubblica amministrazione. Dal 7:30 precompilato alla riforma del catasto, dalle spese per i professionisti agli esoneri per le successioni, passando per i rimborsi IVA e la riqualificazione energetica degli edifici. Palazzo Chigi dà il via libera a due decreti legislativi in materia di semplificazioni fiscali che passano ora alle commissioni parlamentari competenti. La novità più importante riguarda la dichiarazione dei redditi. Sono circa 30 milioni i contribuenti che riceveranno, a partire dal prossimo anno, un modello precompilato da parte dell'Agenzia delle Entrate. Saranno coinvolti i lavoratori dipendenti e assimilati e i pensionati che hanno i requisiti per presentare il modello 730. Dal 2016 la dichiarazione precompilata conterrà anche le spese sanitarie del 2015. Una grande opera di semplificazione per uno Stato vicino al cittadino l'ha definita il ministro delle riforme Boschi. Semplificazione che riguarderà anche le imprese. Quanto al catasto, la riforma muove i primi passi mettendo in moto il meccanismo delle commissioni censuarie. Capitolo eredità: si amplia la platea di contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso parliamo invece del rischio di una nuova incriminazione per oltraggio alla Corte per Silvio Berlusconi. A Napoli una nuova accusa all'orizzonte, a Milano un altro processo che comincia, tutto mentre lui è dai malati di Alzheimer. Venerdì difficile per Silvio Berlusconi, mentre lui arrivava a Cesano Boscone per le 4 ore settimanali ai servizi sociali, nel capoluogo campano cominciavano a valutare l'ipotesi di un'incriminazione per le offese alla magistratura e a Milano iniziava il processo d'appello Ruby. L'ormai ex cavaliere potrebbe essere chiamato a rispondere di oltraggio a magistrato per gli insulti pronunciati dopo la deposizione al processo contro Walter Lavitola. Irresponsabili e incontrollabili li aveva definite in aula, e questo potrebbe essere un reato e soprattutto potrebbe avere conseguenze rispetto al suo affido ai servizi sociali, perché non offendere i magistrati era una delle indicazioni date all'ex premier dal Tribunale di Sorveglianza di Milano dopo la condanna Mediaset. Nella stessa mattina intanto iniziava l'appello Ruby, esattamente 12 mesi dopo la condanna a 7 anni per concussione e prostituzione minorile. In aula non ci sono gli storici difensori di Berlusconi, Ghedini e Longo, indagati insieme a lui nel cosiddetto Ruby Terra. La Corte fissa il calendario e la nuova sentenza potrebbe arrivare il 18 luglio. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E a questo punto arriviamo alla vicenda di Yara Gambirasio. Oggi, dicevo, in conferenza stampa la PM Letizia Ruggeri, titolare dell'inchiesta che ha chiesto il fermo per Massimo Giuseppe Bossetti ieri per l'omicidio di Yara, ha detto che il puzzle di questa inchiesta è quasi completato. La PM non esclude però di chiedere il giudizio immediato a carico di Bossetti senza passare quindi dall'udienza preliminare. Poi, come dicevo, di questo parleremo dopo con una criminologa e un genetista. Passiamo adesso alle notizie che vengono dall'estero. L'Ucraina, la tregua unilaterale annunciata dal governo di Kiev, è iniziata a questo punto a partire dalle 22 ore 21 in Italia, quindi dovrebbe essere iniziata da circa 10 minuti. Lo ha detto il portavoce delle truppe ucraine Seleznyov, citato dall'agenzia Unian. Quindi vediamo poi che tipo di esito può avere questa decisione unilaterale. Poi altra situazione caldissima, quella dell'Iraq. Anche l'ENI riduce il personale in Iraq, allineandosi alla decisione presa nei giorni scorsi dalle principali compagnie petrolifere occidentali. Intanto sono 30 i morti confermati oggi nel paese, mentre il gruppo terroristico ISIS lancia una campagna sui social network a favore della Jihad. E nel mondo ci sono più di 50 milioni di sfollati e richiedenti asilo. A diffondere i dati sono le Nazioni Unite in occasione della giornata internazionale del rifugiato. E proprio all'ONU ha scritto il presidente Giorgio Napolitano, invitando Italia e Europa ad ascoltare le storie dei rifugiati per operare sul fronte dell'accoglienza. Intanto questa mattina la presidente della Camera, Laura Boldrini, è arrivata a Siracusa con la nave della Marina Militare San Giorgio per testimoniare la vicinanza alle truppe impegnate nelle operazioni di soccorso. 55.000 persone dall'inizio dell'anno è un numero di tutto rispetto, è un numero importante che mette a dura prova un territorio. E io sono qui anche per dare atto di questo sforzo alla Sicilia, ai siciliani, ai comuni siciliani. Ma è anche vero che deve prevalere in tutto il paese il senso di responsabilità. La maggior parte di queste persone, il 33%, oggi è in Sicilia, è ospitata in Sicilia, nonostante la crisi. Qui l'egoismo non ha preso il sopravvento. Allora io in qualche modo esorto tutti i territori, tutte le regioni a seguire questo esempio. E questa era la presidente della Camera Boldrini. Adesso invece cambiamo del tutto argomento, ci alleggeriamo un po'. Stasera a Milano l'atteso concerto dei Pearl Jam, il loro primo concerto allo stadio di San Siro. 24 anni di carriera, 60 milioni di dischi venduti. La band di Seattle ha venduto a Milano 62.000 biglietti con 4 mesi d'anticipo dalla data del concerto. Domenica poi il gruppo di Eddie Vedder suonerà al Nereo Rocco di Trieste. Il loro tour mondiale è partito il 16 giugno da Amsterdam, ma la band non ha definito una scaletta ufficiale. Una delle nostre prerogative è non sapere cosa suoneremo fino al pomeriggio prima del concerto, ha detto Stone Gosser, fondatore e chitarrista della band. band, insomma, se lo possono permettere. In attesa del concerto, i fans a San Siro hanno seguito la partita dell'Italia sui maxi schermi, ma auguro agli spettatori di avere maggiori emozioni, diciamo, dal concerto di Pearl Jam. Che dici, Dario Ricci dal Brasile? Ti sei emozionato tu? Beh, qua a Recife emozioni tutte negative, Roberta, perché questo 1-0 per la Costa Rica davvero è stata una brutta botta. Lo ricordiamo, il gol di Ruiz al 45esimo del primo tempo che ha deciso la sfida allo stadio Pernambucano, 1-0 per i centroamericani che stanno sorprendentemente in testa a punteggio pieno nella classifica del gruppo D. Per gli azzurri, deludenti e scioccati anche dal caldo, rimane ancora però la possibilità di qualificarsi anche solo con un pareggio nella sfida del 24 giugno a Natal, sfida decisiva contro l'Uruguay, sarà una sfida da dentro e fuori, insomma. Dario, adesso sono in campo invece Svizzera e Francia 0-0, vedo, poi ci aggiorni tra un pochino, tra circa un quarto d'ora, e ci spieghi anche bene, appunto, meglio dopo, che cosa l'Italia deve fare per rimanere proprio in senso stretto in campo, quindi a tra poco, Dario. Va bene, dopo. Ciao Dario Ricci, noi adesso sentiamo se ci sono degli aggiornamenti per chi viaggia, immagino di sì. Vedo ancora i vostri messaggi sull'incontro che ci sarà mercoledì tra Grillo e Renzi, in realtà tra delle delegazioni dei due partiti, e che cosa vi aspettate da questo incontro, che cosa potrebbe emergere, siete d'accordo anche? Francesco dice: Renzi ascolterà la proposta del Movimento 5 Stelle, ma alla fine il PD vorrà discuterla con il pregiudicato Berlusconi. Giuseppe scrive: nulla per un motivo principale, dice che non si aspetta nulla. Renzi, come Berlusconi, ambisce a un sistema maggioritario a pieni poteri, ad un partito, tra parentesi dice svolta autoritaria, è l'unico che potrebbe fornire questa scellerata soluzione, è Berlusconi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi qui, avete visto, pochi istanti, tra poco affronteremo il tema che è dominante, diciamo, per quanto riguarda le notizie italiane, quello di cronaca, della vicenda di Yara Gambirasio, parte la politica. Questa è una cosa che naturalmente coinvolge tutti in modo anche emotivo, e anche per quanto lunghe sono state queste indagini e il tipo anche di ricerche scientifiche, investigative che sono state impiegate. Però prima di questo vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, se no ve li ricordo, se avete invece iniziato dalle 21, quali sono state le notizie principali della giornata. L'Italia KO, uno shock quindi contro il Costa Rica, ora dentro o fuori nella partita che farà con l'Uruguay. Costa Rica, storica qualificazione agli ottavi, domina la partita e vince 1-0. Per le riforme, accordo sul Senato, presentati gli emendamenti di PD, Forza Italia e Lega. Mercoledì, come dicevo, ci sarà l'incontro del PD col Movimento 5 Stelle, anche se la ministra Boschi avverte si riparte dall'Italicum. Fisco più semplice, dal 2015 arriva il 7.30 precompilato. E poi le frasi contro i giudici di Berlusconi, PM valutano se incriminare il leader di Forza Italia. E per quanto riguarda la vicenda di Yara Gambirasio, la procura non ha dubbi, il puzzle è quasi completato. Quindi avete sentito, ci sono di giorno in giorno, possiamo dire, delle ulteriori novità, degli ulteriori sviluppi. Ieri abbiamo detto è stata emessa la misura di custodia cautelare nei confronti del presunto omicida Massimo Giuseppe Bossetti, e la motivazione è piuttosto lapidaria della giudice Ezia Maccora. Dice innanzitutto che c'è il rischio di reiterare il reato, anche perché gli contesta una nuova aggravante collegata al fatto, dice, che Yara era in condizioni di minorata difesa, non poteva sfuggire alla furia dell'uomo, le esigenze cautelari sussistono, ha avuto riguardo alla gravità intrinseca del fatto connotato di efferata violenza e della personalità di Bossetti, si legge, dimostratosi capace di azioni di tale ferocia poste in essere nei confronti di una giovane inerme adolescente abbandonata in un campo incolto, ove per le ferite, per ipotermia, ha trovato la morte. Una condotta particolarmente riprovevole, scrive la giudice, per la gratuità e superfluità dei patimenti cagionati alla vittima, con un'azione efferata rivelatrice di un'indole malvagia e priva del più elementare senso di umana pietà. Che ne pensa di quanto scritto dalla giudice Roberta Bruzzone? Buonasera Roberta Bruzzone, psicologa forense, criminologa, docente di psicologia investigativa, criminologia e scienze forensi all'Università Lum Jambon Jean Monnet di Bari e anche volto conosciuto. Buonasera. Buonasera, dottoressa voi. Bruzzone. Quindi ha sentito, avrà letto anche queste motivazioni molto pesanti. Sì, le ho lette, sono indubbiamente molto pesanti, circostanziate, però dalla motivazione dell'ordinanza emergono anche dei fatti piuttosto anomali. Insomma, intanto scopriamo che il test del DNA alla signora Zuffi, quindi alla mamma di Bossetti, è stato fatto nel 2012, quasi due anni fa, nel luglio 2012. È quanto mai curioso che, nonostante chiaramente sia la Zuffi sia Bossetti erano chiaramente a conoscenza di questo prelievo, siano passati due anni e comunque Bossetti sia rimasto esattamente dove era, quindi a continuare a vivere, a lavorare lì. Effettivamente questa è una circostanza quantomeno strana, insomma, no? Perché sapendo bene anche l'enorme visibilità mediatica degli accertamenti di natura genetica, che naturalmente rappresentavano un punto di partenza solidissimo, no? In questa inchiesta, di fatto è l'ambito in cui è stata spesa la maggiore energia e le maggiori risorse di tipo investigativo. Beh, curiosamente però, cioè, ripeto, nell'ordinanza è scritto che questa donna si sottopone al test nel luglio del 2012, no? E nonostante ciò, insomma, la questione scatta in maniera anche abbastanza, secondo me, frettolosa per certi versi, non perché vi sia un difetto nell'impianto investigativo, ma perché effettivamente si scopre solo adesso, insomma, che c'è questa linearità materna, insomma, e quindi si individua la mamma del presunto, insomma, ignoto. Già due anni fa. Insomma, anche questo è un aspetto che mi piacerebbe comprendere maggiormente, come mai ci sia voluto così tanto tempo, insomma, no? Certo. Per arrivare a questo punto. Non comprendo, ripeto, la mia perplessità principalmente di tipo investigativo, no? Non comprendo perché non si sia magari atteso un po' di più per circostanziare meglio la situazione. A questo punto un mese, due mesi di osservazione sul sospettato non avrebbero leso sicuramente l'indagine, no? E magari potevano far emergere degli elementi più, ancora più significativi. Oggi noi abbiamo fondamentalmente due tracce la cui matrice biologica non è chiara. Si parla di liquido fortemente cellularizzato, ma non è chiaro di cosa stiamo parlando. Quindi non si sa se è saliva, se è sperma, no. Se è sudore, non lo sanno. Diciamo non che hanno escluso lo sperma, perché è possibile escluderlo sulla scorta dell'assenza di alcuni marcatori, però per il resto non c'è modo di stabilirlo. E indubbiamente la collocazione di queste due tracce che riconducono al DNA di ignoto 1, adesso diciamo ricondotto a Bossetti, sono posizionate in maniera tale che obiettivamente emerge una riconducibilità al momento del delitto, perché sono nella porzione interna sia degli slip che nella porzione sottostante dei leggings, sempre all'altezza comunque dell'area genitale fondamentalmente. Quindi è chiaro che questo è un elemento significativo. Bisognerà vedere se basterà. E poi chiederemo anche al professor Antonio Filippini se basterà e quanto è inconfutabile la prova del DNA. Intanto lo saluto, poi vi faccio sentire un passaggio. Professor Filippini, docente di istologia e embriologia umana all'Università Sapienza di Roma. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Ecco, adesso vi faccio sentire un passaggio, l'avevo un po' raccontata prima quanto ha detto la PM Letizia Ruggeri oggi in una lunga conferenza stampa, ma sentiamolo almeno un passaggio. Il DNA di ignoto 1 era localizzato principalmente in una quantità abbondante sugli slip e sui leggings della ragazzina, che sono stati per così dire spremuti, e sono stati estratti diversi campioni, alcuni migliori, altri meno, perché poi voi potete immaginare si tratta di un DNA che rappresenta come mistura insieme al DNA della vittima. Questo esame del DNA è stato ripetuto in quattro diversi laboratori e viene sempre quel DNA. Inizialmente è stato ripetuto, tra l'altro è stato fatto una volta, poi io non sono un biologo, ve lo potrebbero dire meglio loro, qualche cosa, loro lo fanno e poi lo confermano, prima di dare il risultato, di mettere la firma sulla relazione, lo fanno un'altra volta, poi un'altra volta, poi un'altra volta. Il RIS stesso l'ha fatto su diversi campioni, poi finché ha consegnato il risultato al mio ufficio, in termini di certezza, è sicuro che quel DNA è il DNA, che quel DNA presente sugli indumenti della bambina si configura come il DNA indicato nella tabella che loro mi hanno dato. Quindi parla con una certa sicurezza la PM Letizia Ruggeri. Roberta Bruzzone le ha detto una cosa importante, ha sottolineato un dettaglio molto significativo, cioè che queste tracce dalle quali poi è stato estratto il DNA erano all'interno degli slip della bambina, quindi difficile insomma che fossero collocati lì per caso, perché no, ma magari guardi, l'imbattimento, cioè il deposito casuale o da contact DNA che può svilupparsi anche tra sconosciuti che magari si incrociano su un autobus piuttosto che in una situazione pubblica, qui mi sembra molto difficile in qualche modo ipotizzarlo, questo lo possiamo dire senza particolari tema di smentite. È chiaro che la collocazione della traccia, al di là della traccia in sé per sé, è un elemento indubbiamente molto interessante dal punto di vista investigativo, questo è innegabile, ci siamo. Quindi il problema è la riconducibilità univoca di quel DNA al momento dell'omicidio e, ripeto, questo elemento è probabilmente l'unico vero elemento solido sotto il profilo scientifico in questa vicenda, sotto il profilo investigativo. Il resto degli elementi è tutto da costruire fondamentalmente. Sotto profilo, ripeto, io non intendo solo dal punto di vista investigativo, io già mi proietto più avanti, in un ipotetico processo assai verosimile, e lì le regole del gioco sono un pochino diverse rispetto a quello che magari l'utente comune o la persona non avvezza a questo tipo di ambito si attende fondamentalmente. Sentiamo allora un altro passaggio sempre della PM Letizia Ruggeri, perché qui dice che effettivamente anche lei è consapevole che il caso non si può dire chiuso qua. Ovviamente noi ci guardiamo bene dal considerare questo come un caso chiuso. Noi abbiamo proceduto, poiché abbiamo ravvisato la sussistenza di esigenze cautelari, a fare la richiesta al giudice delle indagini preliminari, però l'indagine non è chiusa. Quindi significa, tecnicamente significa che ci sono dei gravi indizi di commissione del reato e che ci sono delle pressanti esigenze cautelari. Professore Antonio Filippini, allora lei insieme alla sua collega Carla Vecchiotti ha condotto uno studio della Sapienza, ha coordinato uno studio della Sapienza di Roma, ha dimostrato uno studio sul touch DNA, che è la nuova frontiera della genetica forense, no? Un touch DNA, lo dice la parola quasi stessa, DNA di contatto. Sì, quello che faceva riferimento la collega criminologa è che c'è la possibilità che il DNA si trasferisca anche da una persona a un'altra, ma l'origine di questo DNA toccato, possiamo tradurlo in italiano, gli inglesi viene definito touch DNA, DNA, può essere trasferito da una persona all'altra anche semplicemente toccando un oggetto o una persona. Altra cosa però è l'impronta genetica di DNA che viene eseguita da fluido biologico e che mi sembra il caso questo di Chiara Gambirasio, sicuramente sembrerebbe un liquido biologico anche se c'è incertezza sul tipo di liquido biologico. Perché il liquido biologico ovviamente ha cellule e la prova e l'impronta genetica del DNA è incontrovertibile. Il peso della prova dell'impronta genetica in questo caso, questo spetta a chi deve giudicare il peso della prova che ha quell'impronta genetica, ma che appartenga in maniera univoca ad una persona, quello ormai è un dato incontrovertibile dal punto di vista scientifico. Addirittura ho appena sentito che è stato eseguito anche in 4 laboratori diversi. Sì, infatti lo diceva, la PM è una prova comprovata, nel senso rifatta. Questo non c'è dubbio. Poi da qui a dare il che peso ha, questo è ovviamente un tema da processo. E questo poi si vede, però partiamo da fluidi biologici, qua bisogna fare una distinzione importante, sennò si fa confusione. Il touch DNA invece è il DNA che viene un po' trasferito anche semplicemente toccando un bicchiere o toccando un oggetto o toccando una persona e poi successivamente un oggetto. Allora in quel caso noi abbiamo dimostrato che l'impronta genetica di DNA in questo caso non costituisce una prova infallibile di colpevolezza, perché abbiamo dimostrato che il DNA nudo non quindi cellule in un liquido biologico, può essere trasferito anche per via secondaria, e questo è stato argomento anche di altri processi molto famosi, in cui sono stati condannati sulla base di queste prove. Il nostro studio indica che il trasferimento di DNA nudo può avvenire anche da persona a persona e poi successivamente a un oggetto. Per fare un esempio, io ci possiamo incontrare un bar da vecchi amici, baciarci sulla guancia, darci la mano, poi vado a casa di un altro, di una terza persona, tocco un bicchiere, potrei, e questo poi possiamo aprire una parentesi se ci sono dei motivi o una variabilità, ma potrei aver trasferito il suo DNA su quel bicchiere. Ci siamo incontrati su quel bicchiere, lei quel bicchiere non l'ha mai toccato, in quella casa non c'è mai entrata. Certo, questo è molto interessante. Il valore della nostra ricerca, che ha destato anche un grande interesse internazionale, quindi su una prova di un DNA che ha un'origine diversa. Noi abbiamo anche dimostrato qual è l'origine di questo DNA. Però non mi pare, professor Filippini, che sia questo il caso nella vicenda di Chiara Gambirasio. Da sottolineare, altrimenti si crea confusione, che questo di Chiara sembrerebbe abbastanza incontrovertibile, il dato scientifico, e il liquido biologico è un dato incontrovertibile. Bisogna magari cercare di capire come mai quel DNA, quelle cellule, quel liquido biologico stava in quel punto della bambina. Professoressa Roberta Bruzzone, lei intanto, anche se sempre naturalmente si va coi piedi di piombo, con prudenza eccetera, delle cose che ha sentito finora, delle dichiarazioni che ha fatto Massimo Giuseppe Bossetti dopo essersi avvalso più volte della facoltà di non rispondere, poi ieri si è proclamato innocente e continua anche su questa linea, lei che impressione ha avuto questa persona? Ma guardi, il fatto che all'inizio si sia avvalso della facoltà di non rispondere davanti al PM Ruggeri, tutto sommato ci può stare anche come banale indicazione difensiva iniziale. Consideriamo anche che se una persona viene prelevata così in maniera molto, molto a sorpresa, arriva davanti a un PM, gli contesta un delitto di questo tipo e viene affidato peraltro un difensore d'ufficio, è chiaro che ci può stare benissimo che uno voglia capire un attimo quali sono gli elementi in contestazione, no? Anche se chiaramente l'elemento principale, come giustamente messo in evidenza, era il profilo genetico. Ora c'è questa, indubbiamente ripeto, su Bossetti al momento secondo me si può dire tutto e il contrario di tutto, quindi rimane un po' diciamo superficiale la mia valutazione. Sinceramente trovo molto interessante sotto profilo investigativo questa mamma di Bossetti, insomma questa che signora che continua a negare che non sia figlio del marito. Anche sì, io sì. Ho rivisto oggi anche alcuni passaggi, insomma rilascia interviste in maniera molto molto puntuale e in più, ripeto, comunque si scontra contro quello che è un dato scientifico che al momento, almeno rispetto a quello che ho letto nell'ordinanza, è una certezza. Mi pare che non lasci proprio nessun spazio, neanche residuale, quantomeno alla paternità di questo di Guerinoni, Bossetti, rispetto in linea paterna rispetto a Guerinoni, quindi ripeto, questa donna non è che si limita a negare la gravidanza sorta in seguito al rapporto sessuale con Guerinoni, nega proprio contatti sessuali con quest'uomo, quindi anche questa è una cosa abbastanza particolare in una storia di questo genere. Peraltro ripeto, questa donna il test lo fa già in pieno battage mediatico sull'importanza del profilo di Ignoto 1 nel luglio 2012. Ma anche perché, professoressa Bruzzone, avrebbe potuto tirarsi indietro in quel caso? Come funziona se dicono che a tappeto devono fare? No, non poteva tirarsi indietro perché la normativa prevede espressamente che in casi di questo di questa tipa, quando si procede per casi di questo genere, comunque la persona non possa sottrarsi alla richiesta chiaramente motivata da parte dell'autorità giudiziaria, quindi chiaramente non poteva tirarsi indietro, però ci sono voluti quasi 2 anni per arrivare all'epilogo che oggi abbiamo tutti davanti agli occhi. È chiaro che se, insomma, facciamo l'avvocato del diavolo, no? Se io sono cosciente di aver ucciso questa ragazzina, mia madre hanno il mio DNA, perché insomma questo lo sapevamo in tutte le lingue del mondo, insomma, che questo profilo di Ignoto 1 ormai se ne parla abbondantemente da più di 2 anni. Sì. E arrivano a mia madre che effettivamente mi dice: guarda che mi hanno convocato per fare il prelievo, e va a fare il prelievo, insomma, no? due anni uno se l'organizza una vita altrove, no? Poi fa un lavoro che è uno tra i più esportabili al mondo, no? Però scusi, perché professoressa Abruzzo, io la risposta che posso dare io così al momento mentre lei sta dicendo questa cosa è: non aveva alternativa. Se l'avesse fatto sarebbe stato proprio una confessione schiacciante. Ci sono in questo tanti modi modo per organizzarsi un altro, cioè, questo è un momento in cui in Italia c'è grave crisi di lavoro, che uno possa andarsene all'estero a lavorare non è che sia una cosa così anomala oggi, soprattutto perché comunque non è l'edilizia, soprattutto in quell'ambito lì ho pensato mi seguiranno così comunque, quindi faccio tutto questo trambusto, sacrifico la mia famiglia. Non è così automatico che ti trovino all'estero, cioè non è proprio così semplice, insomma, no? Per cui anche lì, cioè, ripeto, è un elemento, cioè uno vive due anni con questo. E lei che spiegazione si dà? Guardi, io in questo momento una spiegazione diciamo concreta non la posso offrire, perché io non ho queste informazioni sufficienti, però mi ripeto, forse una chiacchierata importante da fare con questa donna, perché indubbiamente è un elemento importante di questa inchiesta. Noi abbiamo un dato genetico, benissimo, ripeto, dal punto di vista investigativo è un ottimo punto di partenza. La mia problematica è: reggerà anche nelle fasi successive di questa vicenda? Perché è un elemento particolare questo in questa storia, fondamentalmente, no? Quindi vedremo se questo accadrà. Questo uomo continua a dichiararsi innocente e la difesa avrà il compito, sicuramente arduo, perché non ce lo nascondiamo, di dover giustificare, stavolta l'onere in realtà spetta all'indagato, negativa ce l'ha l'indagato paradossalmente, dovrà stare a loro cercare di giustificare alternativamente, considerando che, come giustamente detto dal professore, non si tratta di touch DNA, ragion per cui l'imbattimento casuale di quella traccia non è stato lì possibile, non era è possibile, francamente, sotto profilo logico deduttivo assai inverosibile. Professor Filippini, abbiamo ancora 20 secondi se vuole aggiungere qualcosa, se no, se ritiene di aver detto tutto, ci risentiamo, poi ci aggiorniamo se ci sono nuovi dettagli. Questo mi sembra ormai uno scenario abbastanza chiaro. Io aggiungerei solo, uno adesso si può chiedere il perché non ha cercato alternative, adesso non riferendomi esclusivamente a quella persona, ma credo che l'ignoranza scientifica poter ritenere che arrivino sicuramente a quell'esito, che arrivare scientificamente alle proprie tracce non sia così facile. Se uno avesse sentito parlare di ignoto uno, ma insomma attribuire un reale significato scientifico, magari con un po' di distacco da certe materie, può darsi che insomma, materie, non fosse facile. Credo che superficialmente si possa anche comprendere, insomma. Comprendere, direi. Va bene, io la ringrazio, professor Antonio Filippini, grazie molte, grazie, grazie a voi. Alla professoressa Roberta Abruzzone. Grazie a voi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, le notizie adesso ve le dico brevemente. Intanto in campo per i mondiali ci sono Svizzera e Francia, la Francia conduce per 3-0, ha fatto gol pochi istanti fa, mentre sapete che l'Italia ha perso 1-0 contro il Costa Rica. Per le riforme mercoledì ci sarà l'incontro tra PD e Movimento 5 Stelle, la ministra Boschi avverte le modifiche ci saranno solo se condivise da Forza Italia. Poi sul caso Gambirasio, che abbiamo ulteriormente approfondito poco fa, in conferenza stampa la PM ha fatto sapere: non escludo il rito immediato e sottolinea nessun dubbio che Giuseppe Guerinoni sia il padre dell'omicida. Adesso però, prima di aggiornarci sulla partita di calcio e su quello che l'Italia dovrebbe fare per non essere esclusa dai mondiali, parliamo di Europa, parliamo in particolare di istruzione. Come siamo messi, secondo voi, rispetto agli altri paesi nell'Unione Europea? Europa 24 notte. Di ritardo lo paghiamo ancor prima di arrivare all'università. A livello internazionale prevale il quadriennio di scuole superiori. Noi fino ad ora abbiamo optato per i 5 anni. Dopo, nei corridoi universitari, andiamo più lenti rispetto al regolare tempo dei corsi. Un aiuto lo ha dato la riforma del 1999, che ha introdotto in Italia la separazione tra il triennio e l'eventuale biennio di specialistica. Oltre al già citato anno in più di superiori, a pesare è anche la didattica stessa. Lo spiega il professor Roberto Moscati, docente dell'Università Bicocca di Milano. nostro sistema è rimasto idealmente quello di 40 anni fa, quando c'erano un decimo degli iscritti che ci sono adesso. I paesi europei sono andati cambiando, nel bene o nel male, insomma, sono andati evolvendo. Il modello fondamentale che ha avuto il più grande successo negli ultimi 15 anni è stato il modello inglese, di tipo neoliberista, che è molto legato al rapporto università mercato del lavoro e competizione tra le università. Questo è possibile in Inghilterra perché le università sono nate autonome. Noi siamo nati come un'università creata dallo Stato. L'autonomia è stata data dai governi degli anni 80, Amato eccetera. Si sono moltiplicate le cattedre, creato una serie di offerte formative apparentemente giustificate da andare incontro alle necessità territoriali degli studenti eccetera, in realtà per andare incontro alle carriere dei docenti. Noi abbiamo avuto una pessima esperienza di autonomia e poi è arrivata la Gelmini che l'ha tolta, dicendo non siete stati capaci e allora peggio per voi. È importante stabilire quindi un certificato di qualità europeo. Per questo da qualche anno il nostro paese ha avviato processi di controllo, da prima nel 2011 con l'ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario della Ricerca, e poi nel 2013 con l'AVA. Ma all'estero c'è chi si è mosso prima e meglio, come spiega il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto. I primi che hanno avviato dei sistemi di valutazione efficaci sono sicuramente stata l'Inghilterra, seguita, devo dire, da un sistema molto interessante da quello dei Paesi Bassi. La crescita qualitativa della didattica riflette benefici sull'economia, come evidenzia Andrea Gavosto. Un miglioramento, diciamo, del 25% dei risultati, quindi, come dire, passare da, per esempio, un voto di laurea di 75 a 1 di 100 porterebbe, se venisse ovviamente per tutta la popolazione studentesca, a un aumento di circa 2 decimi della crescita del prodotto interno lordo. Ora, visto che noi stiamo discutendo se il prossimo anno la crescita sarà 0,6 o 0,7, è chiaro che 2 decimi sarebbero importanti. Claudia Vanni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E ritorniamo in collegamento con il Brasile, con il nostro Dario Ricci, che ha seguito la partita con emozioni negative, dicevamo. E senti Dario, c'è il presidente del CONI, Malagò, che dice la Costa Rica, in realtà quelli della Costa Rica non erano più forti, avevano più voglia. È una questione di voglia? È stata, mi sembra? Ma sì, l'ha detto proprio tra l'altro anche noi giornalisti, insomma, che lo aspettavamo. Non so, certo, quello che più ha deluso non tanto il primo quanto il secondo tempo. La squadra ha pagato forse la condizione fisica particolare, il clima, di cui già abbiamo detto molto, ma certo non riuscire a fare un tiro in porta in tutto il secondo tempo. Via, farà caldo, ma però, insomma, diciamo la poi verità. È entrato, poi più che altro hanno deluso anche alcune delle scommesse di Prandelli, perché Cassano ha dato poco, Insigne, che pure è stato convocato al posto di Giuseppe Rossi, ha dato pochissimo. Cerci, che è stato un po' la rivelazione del Torino, ha fatto un ottimo campionato, praticamente nullo. Insomma, Balotelli? Sicuramente. Balotelli si è spento dopo questa fiammata, intorno al primo tempo, direi anche Benino, ha avuto anche un paio di occasioni, ha sbagliato un pallonetto clamoroso, un altro tiro è stato respinto dal portiere Navas, poi però si è spento, si è nervosito, si è fatto ammonire. Psicologicamente bisogna tenere un po' di più. Senti, vogliamo provare ad ascoltare Prandelli, che commento ha fatto dopo la fine della partita, lo sentiamo. Una sconfitta dove loro sono stati molto più aggressivi di noi, ripartivano sempre con gamba. Dobbiamo giocarci la terza partita per la qualificazione, lo sapevamo, anche con la vittoria non ci bastava. Sapevamo che era un girone particolarmente impegnativo, cercheremo di recuperare tutte le nostre energie e giocheremo con l'Uruguay. Non è che abbia sbagliato l'approccio, loro erano molto molto aggressivi, noi pensavamo di trovare il terzo centrocampista, non ci siamo mai riusciti e quindi dovevamo verticalizzare come abbiamo fatto con Mario 2 volte, abbiamo avuto quelle 2 opportunità. Se facevamo gol probabilmente la partita sarebbe stata diversa, ma è una sconfitta meritata. Beh, se facciamo un gol sarebbe stata diversa, penso proprio di sì. Insomma, non è che ci voglia un tecnico della nazionale per dirlo. No, è stato molto onesto Prandelli, sì. Perché ha detto sconfitta meritata, quindi da quel punto di vista. Però quello che bisogna un po' capire è che forse si è creata un po' una scollatura tra il tecnico e la squadra, perché comunque quello che ha detto Prandelli è proprio che è mancata l'aggressività, è mancato l'approccio giusto, quindi questo è un errore che le squadre di Prandelli in generale non fanno. Hanno sottovalutato il Costa Rica, forse hanno detto il Costa Rica che squadra mai, se non è certo delle più forti, non è certo l'Olanda o la Germania, no? Ma il Costa Rica 5 giorni fa ha battuto l'Uruguay, quindi diciamo che se mai ci fosse stato questo dubbio non ci avevano pensato proprio i costaricensi a farcelo passare, quindi era una partita da non sottovalutare, tant'è che adesso stiamo commentando una sconfitta che è già nella storia della nostra nazionale, come quella con la Corea, come quel pareggio con la Nuova Zelanda appena 4 anni fa in Sudafrica, quindi diciamo una galleria degli orrori calcistici, ecco. Senti, invece vedevo in campo c'erano Svizzera e Francia, mi sembra che i svizzeri si impegnino di più nel cioccolato e negli orologi che nel calcio. Sono già 3-0 per la Francia? Sì, direi di sì. Ce l'avessimo noi il girone della Francia saremmo veramente a parlare di tutt'altra cosa, quindi insomma sì, i francesi fanno il loro compitino con gli svizzeri, hanno già battuto tra l'altro i francesi l'Honduras, altra squadra è l'Ecuador, per carità, massimo rispetto per tutti, ma si sa, così come noi siamo finiti nel girone della morte, l'altra pallina quel giorno di dicembre del sorteggio dei mondiali che doveva essere il nostro girone era proprio quella francese, che invece è andata da tutt'altra parte, poi per carità meriti loro, ma insomma, come si dice, questa volta gli dei del calcio hanno sorriso ai nostri cugini, ecco. E va bene, tra parenti l'importante, dice, vabbè. Senti Dario Ricci, ci aggiorniamo allora poi dalla prossima settimana a vedere se le cose vanno meglio, va bene? Poi adesso nella notte ci trasferiamo in pullman a Natal in vista di questa sfida con l'Uruguay, praticamente l'Italia farà... Quando farà esattamente? Allora, la sfida è il 24 giugno, sempre alle 18 italiane, e noi faremo base lì, l'Italia farà base lì, farà il suo ritiro lì, quindi cambiamo, diciamo, l'obiettivo è tornare a Mangaratiba con la speranza di continuare il mondiale, perché altrimenti la prossima partita è decisiva e quindi si riprende il volo per Rio, insomma. Ma vedremo. Per l'Italia. Vedremo, cerca di trattenerli, Dario Ricci, finché puoi, va bene? Farò il possibile. Ciao Dario. Ciao. Ciao. Oh, e invece adesso dobbiamo capire se l'estate è arrivata una volta per tutte oppure se dobbiamo ancora preoccuparci di piogge, di nubifragi. Colonnello Giuliacci, ci dia delle buone sì. Notizie. Buonasera. Certo Roberta, buone notizie sì, ma per il sud, perché almeno per 7-8 giorni il tempo sarà sicuramente bello, con temperature però che saranno un po' al di sopra della media, ma senza direi sconfinare oltre i 32 gradi, 33-34 al centro della prossima settimana solo sulla Sardegna, ma poi nel fine settimana anche lì il caldo finirà. Il fine settimana sarà bello ovunque, ma invece per quanto riguarda il nord Italia da lunedì ritorneranno le piogge e insisteranno direi almeno fino a venerdì. Anche il centro vedrà sia domani che dopodomani bel tempo, vedrà il bel tempo anche lunedì e martedì, ma poi anche lì mercoledì, giovedì il tempo si guasta. Insomma, riassumendo, bello deciso al sud ma un po' caldo, piovoso a partire da lunedì al nord e un po' di piogge anche al centro tra mercoledì e giovedì. Posso sintetizzare? Posso sintetizzare? Una schifezza praticamente, colonnello Giuliacci. Ma a me sembra che quest'estate non decolli. È vero che non ha fatto gran freddo questo inverno e quindi dobbiamo compensare sopportando che il tempo non sia questo granché. Ma guarda, la natura non è vendicativa e non ha memoria. Cioè, non è perché l'inverno è stato caldo adesso l'estate debba essere freddo, no? A fredda, no? Quindi non vale questa regola. Colonnello Giuliacci, allora ricordo che per chi volesse ulteriori aggiornamenti, approfondimenti, c'è il sito www.meteogiuliacci.it. Mario, se poi riusciamo ad aggiustare un po' la... Sì, di fare non la danza della pioggia, la danza del sole, proviamo se tutto si metta al suo posto. Grazie, ciao colonnello. Ciao Roberta, un saluto agli ascoltatori, buonasera. Oh, invece adesso sentiamo, vi faccio risentire che cosa aveva detto qualche giorno fa, proprio qui a Effetto Notte, Deborah Serracchiani, che non solo è governatrice del Friuli Venezia Giulia, ma è vice segretaria del PD insieme a Guerini, sono i vice, loro due, di Renzi. A proposito, le avevo chiesto che cosa ne pensava di questo di questa richiesta di confronto del Movimento 5 Stelle. Era stato il giorno stesso in cui è arrivata questa richiesta, sentiamola. Loro hanno una proposta, è una proposta che hanno discusso in rete, è una proposta che per alcune parti francamente non mi sembra assolutamente, come dire, una base sulla quale discutere, mi riferisco al proporzionale, penso anche che troverei abbastanza discutibili le preferenze in negativo, cosiddette preferenze in negativo, ma insomma è una base di discussione, noi ce l'abbiamo, si chiama Italicum, l'abbiamo convenuta con diverse forze politiche, ora che finalmente il Movimento 5 Stelle, cioè voluta una sconfitta elettorale, passa dal voler mandare tutti a casa finalmente a discutere di riforme, a noi non può che farci piacere, ma ci fa piacere da cittadini italiani prima ancora che da politici. Devo anche prendere atto che c'è un po' di confusione, ma credo che questo faccia parte insomma delle difficoltà di dover gestire una forza politica. Dicono di voler supportare dal voto della rete qualunque decisione prenderanno sulla legge elettorale, però si sono ben visti dal consultare la rete se era opportuno oppure no aprire al Partito Democratico. Adesso non voglio ovviamente adesso fare lo chiederemo una sottolineatura di questo tipo, però mi pare una discussione aperta nel movimento anche in questo senso. Insomma, quindi diciamo che c'è un movimento di avvicinamento e naturalmente poi abbiamo detto questo incontro di mercoledì 25 giugno, però con delle ritrosie, con dei sospetti, forse anche un pochino, cosa possiamo dire, di irritazione, di rancore, perché quando Renzi aveva cercato, vi ricordate il famoso streaming con Grillo, di trovare un accordo, di trovare una sintesi su almeno certi temi, vi ricordate benissimo com'è andata, però adesso sembra che l'incontro dovrebbe esserci. Che cosa ne pensate? Guardavo ancora la pagina Facebook di Effetto Notte, Elena dice a proposito di cosa ne potrà emergere da questo confronto, dice rien de rien alla francese visto che stanno vincendo sulla Svizzera 3-0, poi Massimo dice non vorrei sbagliarmi ma mi sembra che non sia previsto con l'incontro con Grillo ma con una delegazione guidata da Di Maio, sì, nel senso sono i due partiti che si incontrano, poi sceglieranno chi farà parte di questa delegazione, quali rappresentanti sia da una parte che dall'altra. E poi Alberto, ci vedo un inciuccio, questo incontro partorirà un essere un mix di Renzi e Grillo, Renzillo o Grienzi, sarà la riedizione del D'Alemoni, un mix di D'Alema e Berlusconi, di antica ma non troppo a memoria, ricordate il patto della crostata. E molti altri messaggi, però adesso ci dobbiamo proprio lasciare, vi ringrazio per la vostra partecipazione, per il vostro ascolto, l'appuntamento come sempre poi lunedì alle 21, ringrazio Cristian Goldoni, alla parte tecnica Paolo Corleone, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.